Il punto di Stefano Folli. Tra gli effetti più interessanti di queste elezioni c'è quello di aver reso l'Italia un interlocutore più credibile sulla scena europea. Il partito di Renzi ora conta molto di più all'interno del Partito Socialista Europeo, dove invece i francesi sono crollati e persino i socialdemocratici tedeschi fanno meno seggi dei rappresentanti italiani. Si dirà che le politiche non si decidono nelle aule del Parlamento, bensì negli incontri fra i governi. Anche in questo caso, tuttavia, il vecchio rapporto privilegiato fra Berlino e Parigi è in crisi, mentre il governo italiano, legittimato dagli elettori, si presenta come un nuovo fattore di dinamismo. La cancelliera Merkel dovrà insomma tenerne conto e agire di conseguenza. Il successo complessivo dei partiti nemici dell'euro e dell'Europa non è ancora una valanga devastante, ma richiede una risposta rapida ed efficace. È un'altra opportunità e un'altra responsabilità per il nostro Renzi alla vigilia del semestre italiano di presidenza dell'Unione. 6 mesi da non sprecare con intelligenza politica e realismo.